want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. One, two, one, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telespro. Sì, siamo pronti per il soundcheck di oggi. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telespro, buon pomeriggio amici di Radio 24, appassionati di musica e non. Ci ritroviamo qui all'Auditorium Parco della Musica, siamo tornati qui nel negozio di dischi e di libri dell'Auditorium Parco della Musica perché avevo un appuntamento importante. Un appuntamento importante per me perché volevo rendermi conto effettivamente di come vanno le vendite dei dischi e dei CD e quindi sono riuscito a strappare proprio dalla cassa dell'Auditorium Parco della Musica qui del negozio di dischi Stefano De Leo, che è proprio il responsabile del reparto jazz, ma che comunque cura tutta la sezione discografica, giusto? Giusto, buongiorno a tutti. Buongiorno Stefano. Allora, io volevo dedicare questa puntata agli amici rappers italiani e agli appassionati di rap per raccontare più o meno il rap da dove arriva, perché nelle scuole di musica americane la prima lezione che viene fatta ai bambini proprio dell'asilo nido, della materna, è proprio come si battono le mani, per sviluppare quindi naturalmente il senso del ritmo. Avrei notato che frequentando qui i concerti che ci sono all'auditorium, quando ci sono i concerti pop degli italiani, molte volte il pubblico, invece di battere le mani sul secondo e il quarto movimento della battuta, lo fa sul primo e sul terzo. Ecco, per i profani questo non significa nulla, ma la sensazione quando si battono le mani in battere è quella di ancorare la musica a terra, è praticamente come un freno, come viaggiare con un'ancora piantata nella sabbia. Dico questo perché i rappers e gli appassionati di rap italiano probabilmente non sanno da dove arriva il rap. Allora, siccome la storia è lunga e parliamo quindi di black music, io volevo analizzare con te, sotto anche il profilo delle vendite, questo fenomeno, perché te mi hai detto che fra i generi più venduti in questo momento qui nel negozio di dischi l'Auditorium Parco della Musica, dove dovrebbe essere venduta musica classica e jazz in modo particolare per i concerti che vengono trattati, invece anche qui il rap va per la maggiore. Come mai? Allora, innanzitutto per due motivi. Primo, perché è un genere di musica che colpisce molto gli adolescenti, la fascia di vendita è l'età tra i 10 e i 16 anni. E seconda cosa, perché è un fatto meramente culturale, i negozi di dischi stanno sparendo in Italia e a Roma, quindi siamo rimasti noi unico ultimo baluardo come vendite, per cui i ragazzi spesso, non sapendo dove andare, piuttosto che rivolgersi a un negozio virtuale come può essere un negozio su internet, vengono direttamente a comprarlo qui. Quindi abbiamo la vendita del prodotto Fabri Fibra, del prodotto Club Dogo, dell'artista Fedez e di altri nomi come Moreno, vincitore dell'ultimo Amici di quest'anno. Quindi anche la comunicazione televisiva ha le sue responsabilità sulla vendita dei dischi, nel senso che se si vendono più dischi di rap e di musica pop è proprio perché gli artisti di questi due generi sono rappresentati un po' di più di altri, che dire musica classica e jazz, in radio e in televisione. Qual è il prototipo dell'acquirente del rap e del pop qui all'Auditorium Parco della Musica? Allora, facciamo un distinguo. L'acquirente dell'hip hop, cioè quindi i suddetti Dogo, Fabri Fibra e Moreno, sono i ragazzi, fascia d'età 10, 16, 17 anni. Perché? Perché sono quelli che fruiscono di questo tipo di musica, sono quelli che ascoltano e vedono programmi quali MTV che sono riempiti da questi musicisti. L'acquirente pop invece può essere anche di una fascia d'età più alta e compra ovviamente il prodotto pop del momento, come può essere la Adele di turno per quanto riguarda gli stranieri, o i vari artisti italiani che possono essere Ramazzotti, la Pausini, secondo chi è uscito in quel momento. Allora, noi lanciamo subito il primo brano di oggi e ho scelto Marvin Gaye con Inner City Blues, perché questa puntata l'ho intitolata Soul Brothers, perché anche il rap contemporaneo viene da lì. La cosa bella è che tutti gli artisti di rap americano comunque hanno nel DNA un certo tipo di sound che arriva dalle famiglie, dai nonni, e quindi la soul music, il blues, un po' di jazz. Questo è Marvin Gaye con Inner City Blues al soundcheck di Radio 24. Setbacks, natural fact is, oh, honey, I can't pay my taxes. Oh, make me wanna holler and throw up both my hands. Yeah, and make me wanna holler and throw up both my hands. Allora, siamo con Stefano De Leo, che è il responsabile del reparto vendite dei CD e della musica qui all'Auditorium Parco della Musica, proprio per capire la tipologia di acquirenti sui CD. Insomma, si vendono poco, diciamo la verità, è così. Questo è un fatto ormai storico, sono 25 anni che le vendite stanno piano piano calando, anzi neanche tanto piano piano, velocemente stanno calando. Noi nel nostro piccolo continuiamo a resistere, ci avvantaggia il fatto che i grossi negozi, o comunque il negozio di musica, il negozio di CD è scomparso praticamente dalla città, e non solo dalla città, anche dall'Italia, quindi teniamo ancora botta, come si suol dire. Però è chiaro che pure noi vediamo un'emorragia di vendite sempre più alta, probabilmente gli store digitali o gli store virtuali quali Amazon o quali iTunes cominciano a far sentire il loro peso, soprattutto nei fruitori quelli più giovani. I ragazzi adesso sono molto più avvezzi all'uso del computer rispetto a 20-25 anni fa, e ovviamente per loro è più facile fruire di un prodotto attraverso uno store digitale. Allora, facci compagnia ancora 5 minuti, facciamo una breve pausa per andare in pubblicità e poi torniamo con un altro campione della soul music assolutamente da non perdere, che è Donny Hathaway, dal vivo in What's Going On, brano scritto da Marvin Gaye, ma in una versione live di questo campione della vocalità di tutti i tempi. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Sound check. Il suono della musica. Sì, Donny Hathaway con What's Going On, brano scritto da Marvin Gaye qui in una versione live. Pensate che Donny Hathaway ha registrato soltanto 5 album in carriera, 2 dal vivo, e poi anche lui si è tolto la vita. Fanno tutti una fine disgraziata questi campioni di vocalità nera, da Marvin Gaye sparato dal papà a Donny Hathaway che si è suicidato, anche se poi ha lasciato a tutti noi musica bellissima, in eredità a tutti i vocalist contemporanei un certo modo di utilizzare la voce così aperta, in faccia, come si suol dire. Donny Hathaway qui al soundcheck di Radio 24, sempre con Gegè Telesforo, e il piacere di avere ai nostri microfoni Stefano De Leo, responsabile vendite del reparto discografico qui all'Auditorium Parco della Musica. Vanno molto bene, abbiamo detto, le vendite del rap, le vendite del pop, e qui dove dovrebbe essere venduto il jazz e anche la musica classica per i concerti, la cosa che funziona è proprio quello, cioè tenere aperto il negozio di dischi subito dopo il concerto. Il pubblico si sposta e addirittura a volte si incontrano gli artisti subito dopo l'esibizione. Funziona quindi la vendita quasi porta a porta. Sì, certe volte abbiamo la fortuna di avere il musicista, soprattutto per quanto riguarda i musicisti pop o jazz, che vengono qui a fare le cosiddette sign session, cioè la firma del prodotto, dell'ultimo disco, del libro in alcuni casi, e incontrano il pubblico entusiasta del concerto. Le vendite dei dischi, sì, è vero, calano, ma è vero anche che i concerti sono un forte traino per noi, quindi abbiamo fortunatamente questo grosso traino e ci permette di avere comunque delle vendite anche abbastanza stabili, nonostante la grossa crisi che continua a attanagliare il mercato discografico. Allora, questo lo voglio consigliare ai più giovani che si stanno lanciando nelle avventure discografiche, perché mi arrivano molti CD di giovani musicisti che vogliono dei consigli, altri vorrebbero essere addirittura prodotti. Io consiglio, ragazzi, stampatevi i CD da soli, magari da uno stampatore indipendente, portateveli in giro per i concerti e vendeteli lì, perché avete il 100% dell'incasso senza dover dividere la fetta con nessuno. Possiamo raccontare, Stefano, un po' come funziona il rapporto fra le case discografiche e un negozio di dischi come questo dell'Auditorium? Allora, premettendo che ormai le case discografiche sono ridotte a due o tre major importanti più una serie di piccoli indipendenti, noi lavoriamo generalmente con appunto le grosse major, che ci forniscono un 70-80% dei prodotti principali. Ormai quasi tutti gli artisti si affidano a queste etichette anche per una maggior penetrazione nei cosiddetti punti vendita. Abbiamo un rapporto praticamente diretto, ormai anche la figura dell'agente è praticamente scomparsa. Se prima veniva questa persona che promuoveva il disco X o Y dell'artista che stava per uscire, adesso la tecnologia ci ha aiutato, tra virgolette, in questo senso, in quanto la cosiddetta mail arriva con tutto il servizio novità, l'elenco dei prodotti che usciranno prossimamente, con in allegato il foglio esplicativo del singolo prodotto, del singolo artista che uscirà, e noi praticamente lavoriamo così. Senti, Otis Redding lo vendi ogni tanto? Ogni tanto, sì. E bisogna dire una cosa: il soul, purtroppo, e lo dico proprio con molto dispiacere, non appartiene alla cultura popolare italiana, quindi è poco conosciuto. Diciamo che i nomi che continuano a vendere sono appunto quello di Redding e quello di Aretha Franklin, quando in realtà esistono molti altri artisti molto molto bravi e molto validi, tipo quelli che appunto ha fatto sentire in questa trasmissione, che purtroppo però, o per un motivo o per un altro, non sono né distribuiti né sentiti dagli ascoltatori. Quindi diventa molto difficile. Se qualcuno venisse qui a chiedermi adesso i dischi di Donny Hathaway, io dovrei allargare il braccio e sconsolatamente dire: purtroppo non sono distribuiti in Italia, dovete rivolgervi a altri mercati esteri. Bene, comunque li trovate senz'altro in formato MP3 su iTunes. E qui invece chiudiamo questa seconda parte con Sitting on the Dock of the Bay, un successo di Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Soundcheck, il suono della musica. Puntata intitolata Soul Brothers, quella di oggi qui al Soundcheck di Radio 24, e ci stiamo piacevolmente trattenendo all'Auditorium Parco della Musica, sempre nella zona CD, con il responsabile delle vendite dei dischi, se possiamo ancora chiamarli dischi. Vivranno ancora a lungo? Non lo so, ne devo parlare con alcuni amici discografici, però insomma ci si sta già organizzando con nuovi supporti. Senz'altro l'MP3 è il supporto più agile, più veloce e più giovane, lasciami usare questo termine. E quindi il target degli acquirenti di dischi qui all'Auditorium Parco della Musica qual è? La mia età? Dipende dal prodotto che viene comprato. Chi compra jazz, compra musica classica, è una fascia d'età medio-alta, chi compra pop o hip-hop ovviamente al contrario. C'è da dire una cosa: c'è una riscoperta del vinile. Da un po' di tempo le stesse case discografiche si sono accorti che c'è una richiesta maggiore di vinile rispetto a qualche anno fa, e adesso ricominciano a ripubblicare il disco ultimo dell'artista sul momento in vinile. Ci sono anche ripubblicazioni di vecchi classici, sia di musica jazz che di musica classica che di musica pop, quindi c'è una nuova riscoperta di questo prodotto che sembrava destinato ormai al museo della musica, oserei dire, oltre naturalmente al classico CD che continua, seppur poco, a tenere botta. Poi c'è la cosiddetta musica liquida, come ha detto il maestro Telesforo, la musica venduta tramite iTunes o scaricata tra virgolette illegalmente è un prodotto che va, è un prodotto. Qualche giorno fa abbiamo parlato del nuovo sistema con Spotify, praticamente con pochi euro al mese puoi ascoltare di tutto e di più tutto quello che è stato creato, e qui vi facciamo ascoltare, sempre perché vogliamo diffondere il linguaggio della soul music fra i giovanissimi, gli appassionati di rap che devono capire da dove arriva il ritmo tipico dell'hip hop e anche un po' le tematiche utilizzate nei loro testi. Qui c'è un campione, Curtis Mayfield in Move On Up. We move on up, watch out, we just move on up. We move on up, move on up. Grazie a Stefano De Leo, qui responsabile vendite dell'Auditorium Parco della Musica per i CD, grazie per la partecipazione. Tu lo sai che sei uno dei pusher di discografia miei personali, quindi ti pregherei di farmi una telefonata non appena arrivano novità e nuove ristampe. Grazie a tutti, è stato un piacere stare qui con voi, è un piacere essere il suo pusher e appena possibile speriamo di risentirci nuovamente a parlare di musica buona. Allora, restate in contatto con Radio 24, anche perché parte Bill Withers con Use Me. Non scaricate illegalmente la musica, danneggiate non solo la discografia, ma artisti, autori, compositori, arrangiatori, tutte quelle persone che fanno musica con passione per rendere la nostra vita migliore. My friend, yes. Yeah, but when I talk was through. I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Sound check. Il suono della musica.